Alle 4 entrava in casa e preparava il caffè semplicemente miscelando polvere di caffè e acqua bollente e attendendo che i fondi si depositassero. Poi lasciava il tutto sullo stoino fuori dalla porta chiusa a chiave del laboratorio. Herr Dremmel non gradiva essere disturbato quando era al lavoro e Ingeborg soleva passare accanto a quel luogo furtivamente in punta di piedi, mordendosi il labbro inferiore, concentrata nel tentativo di evitare che le tazze sul vassoio tintinnassero disturbando le sue orecchie. Quando Robert era in casa, ogni canto cessava. Ingeborg faceva sì che Ilse si dedicasse in quel momento a tutte le faccende all'esterno, pulire il pollaio, mungere la mucca, sia che fosse ora o meno, e accudire il maiale. Johan era via tutto il giorno sui campi di prova ed Else vagava fra la confusione che regnava sulle aie a gambe nude, godendosela un mondo, dato che non veniva mai rimproverata. Il cortile era separato dalla via che costeggiava il villaggio solamente da uno steccato e i giovanotti di Kirkense, mentre vi passavano accanto, vi si appoggiavano facendosi un'idea, dal modo in cui si prodigava per il benessere del maiale, della qualità del benessere che il futuro marito si sarebbe potuto aspettare. Alle 7 Ilse andava a casa e Ingeborg preparava una cena così simile alla colazione che nessuno avrebbe potuto indovinare che fosse sera e non mattina, se non per il fatto che i raggi del sole che attraversavano il vaso di miele provenivano da ovest e non da est, e poiché in tavola vi era del formaggio. Durante questo pasto, Herr Dremmel, con la testa piena di fertilizzanti, era per la maggior parte delle volte profondamente pensieroso. Beveva il caffè in cui si stava ormai saturando e mangiava fette di pane e formaggio in un silenzio impenetrabile. Ingeborg sedeva gettando briciole agli uccellini e osservando il cielo al margine del mondo assumere dapprima una colorazione rosso cupo, poi schiarire e poi accendersi nuovamente di un tenue verde. E molto dopo che le ombre dei tigli erano diventate nere, e dopo che le stelle e i pipistrelli erano comparsi in cielo e le rane avevano ripreso a saltellare fra le canne del lago e il cigolio occasionale della pompera, tutto ciò che si poteva udire in quell'immensa immobilità, loro continuavano a stare seduti in silenzio, Herr Dremmel fumando e Ingeborg facendo progetti. A volte lei si alzava, gli andava vicino e accostando il viso a quello di lui ne scrutava gli occhi nell'oscurità. «Ma quanto rumore produci?» gli diceva, sfiorandolo con un bacio sulla sommità del capo, tanto era abituata oramai dal matrimonio a cose che un tempo le sembravano impossibili. Lui allora si risvegliava, le sorrideva, le dava piccole pacche gentili sulla spalla e le diceva che era una brava mogliettina. In quei momenti si sentiva orgogliosa, era proprio quello che aveva inteso diventare, una brava mogliettina. Desiderava dispensare a pagamento, essergli utile come era stato utile al padre nei giorni precedenti alla sua caduta in disgrazia, anzi ancora di più, dato che lui era tanto più gentile, tanto più caro. In cambio di questa straordinaria felicità, di questa deliziosa sensazione di essere al sicuro da ogni forma di disapprovazione, di queste giornate di libertà meravigliose, senza paura, avrebbe dato tutto ciò che aveva, tutto ciò che era, tutto ciò che poteva imparare e sforzarsi di essere. Quasi sempre, verso le 10, Herr Dremmel ritornava nel suo laboratorio e lavorava fin dopo mezzanotte. Ingeborg giaceva sveglia nella stanzetta, spoglia alla fine del corridoio fino a che poteva, affinché il sonno non le sottraesse una porzione eccessiva di vita, odorando il delicato effluvio che proveniva dalle diverse essenze del giardino anch'esso dormiente. Guardando in direzione delle stelle guizzanti fuori dalla finestra aperta, riusciva a intravedere il biancore appena percettibile del cespuglio di Viburno che risaltava contro l'oscuro sipario della notte. Fin quando Herr Dremmel arrivava, chiudeva la finestra. Una volta ogni 15 giorni, a domeniche alterne, alle 2 del pomeriggio, Herr Dremmel celebrava una messa. La domenica della settimana successiva veniva invece condotto da Johann in un altro villaggio distante 3 miglia, che faceva parte della sua sparpagliata parrocchia. E là riproponeva la stessa predica che aveva tenuto la settimana precedente a Cokense. Praticava una rigorosa economia in fatto di sermoni. In compenso si presentava il vantaggio che un entusiasta, benché non ve ne fossero molti, aspettando una settimana e percorrendo 3 miglia a piedi in un terreno per lo più composto da sabbia, avrebbe potuto ascoltare di nuovo i passi del sermone che più l'avevano colpito la settimana precedente. Attendendo un anno, lo stesso entusiasta, sempre ipotizzando nell'esistenza, poteva riascoltare tutto da capo, poiché i sermoni di Herr Dremmel, che erano numerati da 1 a 26, venivano ripresentati puntualmente a partire dal 1° gennaio con la festività della purificazione e scorrendo veloci nell'anno di 15 giorni in 15 giorni, terminavano generosamente e regolarmente a Natale, con l'avanzo di uno. Per quanto disattento potesse essere un membro della congregazione, con il passare degli anni egli non poteva non imparare a memoria i sermoni. Essi contenevano, secondo la stagione, una serie di consigli pratici oppure una dirata esposizione dei doveri. Ve ne erano uno ogni anno, quando si avvicinava il periodo della mietitura, basato sul libro di Michea 4:13, Alzati e trebbia, che spiegava con paziente precisione i metodi più avanzati. Vi era l'annuale sermone di ringraziamento per il raccolto, basato sul Vangelo di Matteo 13:26, Zizzanie. Dopo che per un altro anno la congregazione aveva mostrato un'ostinata indifferenza ai concimi chimici. C'era poi il sermone basato sul libro di Geremia 9:22, Non vi è medico là? Pronunciato una volta all'anno in occasione dell'ultima domenica della solennità della Santissima Trinità, quando le fredde, copiose piogge autunnali mettevano vittime fra gli anziani della parrocchia e i contadini, avendo notato che una volta chiamato il medico, l'infermo migliorava ed era quindi necessario pagare la parcella, evitavano ove possibile le visite a domicilio, chiedendosi l'un l'altro in tono afflitto come si poteva mai campare se si doveva sconfiggere la morte a così caro prezzo. Vi era poi il sermone dell'Avvento, quando si avvicinava l'annuale macellazione dei maiali, basato sul libro di Isaia 65,4, Carne di maiale. E quest'ultimo non mancava mai di riempire la chiesa. Nonostante la ben misera opinione riguardo ai maiali espressa sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, dove scoprì Herr Dremel impegnato nella alacre ricerca di un testo, lì si menzionava malapena, se non come ricettacoli per il demonio, nella vita dei suoi parrocchiani essi fornivano il più prossimo, in verità l'unico, mezzo per il raggiungimento delle più eccelse emozioni, vale a dire della gratitudine, dell'amore e della meraviglia. Il contadino, osservando quel roseo calice di future delizie, quel misterioso crogiolo semovente in cui egli gettava i più ributtanti rifiuti avanzi, i più infimi scarti degli scarti stessi, rimasugli che nemmeno il suo scarno cane avrebbero osato toccare per vederli riapparire entro Natale sotto forma di salsiccia, non poteva fare a meno di provare un sentimento benevolo e non privo di un tocco di timore reverenziale. Infatti, mentre i parenti di quel contadino erano malati e dovevano procurarsi un dottore oppure un funerale, e talvolta facendolo andare su tutte le furie, entrambi, oppure ancora godevano di buona salute, in tal caso era necessario procurar loro cibo e indumenti, il suo maiale gironzolava roseo e nudo, non dando alcun problema, non richiedendo alcuna spesa, bensì trasmutando placidamente il lardo da consumarsi in occasione di feste future, ciò che senza di esso si sarebbe trasformato in cumuli di rifiuti, fonte di mosche e di putrefazione. Quando parlava di maiali, Herr Dremel trasudava intimità e calore locale, anzi di più, trasudava magnificenza. Di tutto l'anno, quello era il sermone che garantiva il massimo affollamento in chiesa. Ed era in quel giorno che Kochense si sentiva compresa appieno dal suo pastore. Ingeborg andava diligentemente in chiesa ogni volta che vi era da andarvi. Aveva spiegato a Herr Dremel che considerava suo dovere quale moglie del pastore dare il buon esempio. Lui le pizzicò l'orecchio e rispose che le sarebbe tornato utile per il suo tedesco. Egli sembrava non pensare nulla dei doveri della moglie di un pastore, e quando le suggerì che era forse ora di iniziare a girare per le case senza attendere di immagazzinare ulteriori conoscenze linguistiche attraverso lo studio del suo libro, egli rispose soltanto che l'unico dovere di una brava mogliettina era rendere felice il proprio marito. Perché? Non ti rendo abbastanza felice? Chiese con fiducia, afferrando con entrambe le mani il bavero del suo cappotto. Certo! Guarda come sono diventato sdolcinato! Ma io posso fare molto di più. No, nulla che valga altrettanto, nemmeno la metà. Ma Robert, una cosa non esclude. Herr Dremmel, comunque, aveva già smesso di ascoltarla. I suoi pensieri erano scivolati via di nuovo. Ingeborg vedeva se stessa nella mente del marito come se fosse seduta in cima a un pendio, sul quale egli occasionalmente si arrampicava per vezzeggiarla. Durante quelle visite, lei si impegnava con entusiasmo per intrattenerlo con la conversazione, formulando delle domande per indurlo a rimanere. Ma anche mentre lo intratteneva, lo sguardo di lui si offuscava e la sua attenzione volava via, lasciandola lì a osservarlo con un misto di affetto, rispetto per il suo lavoro, orgoglio e divertimento, mentre lui si straniava sempre più. Ingeborg si diceva che era inutile impazzire per tentare di acchiappare l'acqua. E ridendo, riprendeva a svolgere il compito che aveva lasciato in sospeso, gioendo per quella sensazione di indipendenza così ideale, così perfetta, per quell'ampiezza di libertà in cui dedicarsi esattamente a ciò che più le piaceva. Che immensi spazi di tempo tutti per lei. Che meraviglia tutto ciò dopo la programmazione serrata di ogni singola ora Rochester nello studio di suo padre. Quando avesse superato le prime difficoltà con la lingua tedesca e non avesse più avuto bisogno di dedicare la maggior parte della sua giornata allo studio, avrebbe ordinato dei volumi dall'Inghilterra e si sarebbe messa a leggere all'infinito. Tutti quei libri che aveva desiderato leggere, ma la cui lettura non le era mai stata consentita. Ah, oh, la magnificenza del matrimonio, pensò Ingeborg battendo le mani, e lo splendore della liberazione che regalava. Sarebbe partita al mattino, con l'imbarchino pieno di libri, e avrebbe trascorso lunghe giornate nella foresta, sdraiata sul verde tappeto primaverile di foglie di mirtillo, passando il tempo a leggere. Si sarebbe dedicata a ogni impegno a soddisfare la necessità della sua mente, adoperandosi seriamente affinché essa non deragliasse dalla via auspicata. Aveva portato con sé tutti i libri che possedeva e li aveva sparsi in giro per il salotto, regali di matrimonio che le avevano arricchita della conoscenza di Hardy, Meredith, Kipling, Tennyson e Ruskin, nonché i libri di quando era ragazza. Ce n'erano tre: L'anno cristiano, donatole da suo padre il giorno della cresima, le poesie di Longfellow, regalatole dalla madre, e il Tulipe Noir di Dumas, conseguito quale premio per la lingua francese, dato che Judith non lo conosceva affatto, un'estate in cui una governante francese fu introdotta, sventatamente, disse poi il vescovo, a palazzo. Alla signora furono fatte fare le valigie poco dopo con grande circospezione e ogni angolo della casa venne scrupolosamente disinfettato da Richards, che in ogni caso non trovò nulla, a eccezione di un libro dalla copertina gialla intitolato Bibi e Lulu, Mort de Montparnasse. E persino quello non fu trovato nella sua stanza, bensì in quella di Judith, nascosto sotto delle calze. Herr Dremel aveva raccolto uno dei volumi donati in occasione del matrimonio la prima volta che li aveva notati e ne aveva sfogliato le pagine. Si trattava di The Shaving of Shephead. No, no, disse mettendolo subito a posto. Perché Robert? Aveva chiesto Ingeborg, ansiosa di ascoltare la sua opinione in merito. Ma egli le batté la spalla con aria assente e scivolò via di nuovo, giù, nelle regioni della pragmaticità reale, le regioni in cui il suo cervello lavorava incessantemente, ipotizzando combinazioni chimiche e dimenticando, talvolta in modo così completo da sorprendere persino se stesso, di avere una moglie. Invariabilmente, comunque, trovava piacevole riemergere e ricordarsi di lei. Una volta Ingeborg gli chiese di mostrarle i suoi campi di prova. Robert, molto amabilmente, un torrido mattino, la portò con sé, promettendo di spiegarle ogni cosa. Non appena li raggiunsero, però, egli cadde assorto nei suoi pensieri e, dopo aver trascorso un'ora seduta su una pietra sul ciglio di un campo coltivato a lupini, sotto un abete sparuto che forniva una piccola zona d'ombra in quel deserto assolato, guardandolo andare su e giù lungo il terreno coltivato, in apparenza esaminando ogni singola pianta con Johan, Ingeborg iniziò a pensare che sarebbe stato meglio avvicinarsi verso casa e preparare la cena. Così, indirizzandogli un gesto di saluto che egli non notò, lo lasciò. Un giorno o due più tardi gli chiese se non sarebbe stata un'idea carina e piacevole invitare sua madre a prendere il tè. Egli rispose in tono amabile che non sarebbe stato né carino né piacevole. Gli chiese se non ritenesse che fra i loro doveri ci fosse anche quello di invitarla. Egli, dopo attenta considerazione, rispose: Forse. Allora lei gli domandò se non volesse bene a sua madre. Egli, senza esitare, disse: No. Allora andò da lui, si sedette sulle sue ginocchia e, afferrandolo per le orecchie, gli sollevò il viso in modo tale da poterlo guardare dritto in viso. Ma Robert, disse: Sì, mia pecorella? Già dal momento del loro matrimonio, istintivamente, gli aveva cessato di chiamarla Agnellino. L'universo che per un certo periodo di tempo, grazie a lei, si era convertito in uno scenario unicamente occupato da un essere femminile, era tornato a disporsi secondo le linee consuete. L'agnello era oramai una pecora, certo, una tenera, piccola pecora, ma non più e mai più un agnello. Era felice di essere riuscito a innamorarsi così follemente ed era altrettanto felice di avervi applicato così prontamente il rimedio del matrimonio. Il tipo di affetto che nutriva per sua moglie era del tutto soddisfacente. Tranquillo, profondo e non interferiva con nulla. Lei occupava il posto onorevole che lui, persino nei momenti di massimo innamoramento, sapeva che lei avrebbe infine ricoperto, vale a dire la posizione che veniva subito dopo i fertilizzanti. La sua casa, da sempre intristita dalla presenza tenebrosa delle vedove, era adesso un luogo allegro. In maniera per lui Inusitatamente poetica, paragonava la moglie a un affaccendato svolazzante uccellino in primavera ed era sempre felice di lasciare che quell'uccellino gli si appollaiasse sulle ginocchia. Beh, mia pecorella, le chiese sorridendole mentre lei lo guardava dritto negli occhi. Il suo viso, visto da vicino, lo affascinava con i dettagli delicati, con la giovane perfezione della carnagione e del colorito, e guardandola negli occhi fu ancora una volta felice di notare quanto fossero intelligenti. Presto vi sarebbero stati robusti ragazzini con occhi come quelli, grigi, onesti e intelligenti, che ruzzolavano in giardino, i suoi ragazzi, che avrebbero proseguito con molta più efficienza il lavoro da lui intrapreso. Beh, mia pecorella, le disse improvvisamente commosso. Non si dovrebbe amare la propria madre? Chiese. Forse. Ma io no. E tu? Oh, povera mamma, disse subito Ingeborg. Nelle brume della lontananza, il ricordo di sua madre le infondeva tristezza e tenerezza. Tutti quegli anni già trascorsi sul divano e tutti quegli altri a venire. Ora che anche lei era sposata, riusciva a immaginare che cosa significasse aver avuto per marito il vescovo, averlo preso puro, non diluito in alcun modo per 20 anni. Improvvisamente si sentì il petto traboccare di comprensione e pietà. All'inizio la si ama, senza dubbio, disse Herr Dremmel. E poi si smette? È per quello che i bambini vengono al mondo, affinché possano cessare di amarci? Egli divenne cauto, pensava in generale e allo specifico, a volte madri e ad alcune. Alle madri dell'attuale generazione, che definiva Gewesne e alle madri della generazione a venire, le Werdende. In quel momento, mentre lei si chiudeva in un enigmatico silenzio sulle sue ginocchia, egli sentì crescere dentro di sé l'amore per sua madre. Si disse che senza dubbio albergava in lui da sempre, ma che, come molte altre cose, quando la vita era troppo affaccendata e si aveva ben poco tempo per dedicarsi a risvegliarli, era rimasto dormiente. Ma ora si sovvenne e ne riconobbe tutta la bontà di quanto sarebbe stato bello esortare sua madre a far loro visita al più presto per trascorrere un pomeriggio, meglio ancora una mattina, in sua compagnia. Ma tu non sei qui al mattino, disse Ingeborg. Ah, è vero. Comunque sarò presente a pranzo. Sì, ma non si sa mai a che ora. Forse potrei rientrare presto. Fu così che la più anziana Frau Dremmel, che provava orgoglio nel considerarsi la vedova del padre amorevole di quel figlio che invece la trascurava e che per via di tale risentimento non avrebbe mai compiuto il primo passo, a 7 settimane di distanza dal matrimonio, varcava la soglia della casa di sua nuora. Capitolo 14. La visita fu organizzata per il venerdì seguente alle 4, in quanto Ingeborg riteneva che l'atmosfera pomeridiana meglio si adattasse nel complesso all'affabilità necessaria a un'occasione del genere, piuttosto che ai più tiepidi impulsi caratteristici degli umori mattutini. Pertanto, Johann fu invitato a Moek per prelevare Frau Dremmel e portarla a casa del figlio per quell'ora. Come prima cosa ci sarebbe stato il tè in giardino, visto che, come è noto, tale bevanda agisce quale catalizzatore della buona disposizione d'animo. Poi, con l'aiuto di un dizionario, sarebbe seguita la conversazione. Ingeborg aveva avuto tempo di riflettere sul rapporto con la suocera ed era fermamente convinta che nessuna barriera artificiale, come ad esempio quella della lingua, dovesse frapporsi tra loro e il processo di costituzione di solite basi affettive. Se fosse stato necessario, avrebbe potuto orchestrare una frase con i corrispondenti tedeschi dei vocaboli giganti, ombrelli, chiavi e occhiali, quale incoraggiamento alla conversazione e per mettere un po' alla prova sua suocera. Se poi Frau Dremmel avesse reagito con un minimo entusiasmo all'accenno di quei soggetti, allora avrebbe potuto continuare con cera, dita, barbe e terminare con principi, barche e spalle. Erano pur sempre tre frasi e non poteva fare a meno di pensare che esse offrissero un ampio potenziale di argomenti di dialogo. Vi sarebbero state tre risposte e trattandosi della propria lingua, Frau Dremmel avrebbe certamente ampliato la conversazione. A quel punto Ingeborg avrebbe avuto il suo dizionario per mettersi alla ricerca delle parole più salienti e una volta trovate le avrebbe sorriso di rimando, il viso acceso da una festosa espressione di comprensione e di apprezzamento. Ingeborg supponeva che tutto questo, inclusa la somministrazione del tè, avrebbe richiesto circa 50 minuti. Poi avrebbero passeggiato un po' avanti e indietro all'ombra, l'una richiamando all'attenzione dell'altra il paesaggio e i campi di segale, e così sarebbero trascorsi forse altri 10 minuti. Poi alle 5, supponeva Ingeborg, Frau Dremmel avrebbe chiesto e ottenuto la sua carrozza per far ritorno a casa. Ingeborg si risolse di baciarla alla fine, quando la visita avrebbe raggiunto lo stadio dei saluti del commiato. Non sarebbe stato difficile, pensò. Sapeva bene che il commiato non mancava mai di rivelarsi un momento di grande entusiasmo. Lei e Ilse furono assorbite tutta la mattina nei preparativi, entrambe infuse dello stesso spirito con cui le bambine preparano le feste per le loro bambole. Ma quella che stava per arrivare era una bambola vivente e loro stavano preparando dolci reali che lei avrebbe mangiato per davvero. Le torte erano presenti in una gran varietà di forme, o meglio, di contorsioni. Il caffè era di quello forte, proprio delle feste. Il pane era stato affettato per tramezzini che dovevano essere sottili e delicati. Ma le fette sotto la lama erano risultate piuttosto spesse. Perplessa, Ingeborg pensò fosse colpa dell'aria vigorosa della Germania. Inoltre, vi era la prima uva spina. Quando la tavola fu apparecchiata all'ombra dei tigli con il tocco finale di una brocca colma di rose, ella rimase ammirata a contemplare la sua opera. E più si allontanava, più il risultato finale le appariva delizioso. Da vicino era pur sempre attraente, anche se si trattava di quell'attrattiva deludente che spesso presentano i tavoli imbanditi in occasione delle feste scolastiche. Forse per via del troppo cibo, pensò. Forse era l'immensa girandola dei tramezzini a stonare. Ma visto dall'altra estremità del sentiero, il tutto formava un'immagine così piacevole che avrebbe voluto saperla riprodurre con gli acquerelli. Le grandi chiome degli alberi, la tenue luce pomeridiana, la visione appena percettibile della vecchia chiesa a un'estremità della scena, dall'altra uno scorcio di lago che riluceva come una gemma incastonata nell'oro, e al centro, immacolata e allestita in modo impeccabile, la tavola del suo primo ricevimento. Frau Dremmel arrivò indossando un cappello nero con un fiore color malva sul davanti che denunciava i 10 anni che erano stati necessari per mitigare il suo dolore. Quando suo figlio udì il fracasso provocato dalla carrozza che sobbalzava sulle pietre sporgenti, alternate a buche che formavano la strada del villaggio, uscì dal laboratorio e rimase sulla porta per assisterla nella discesa. Non pronunciò nemmeno una parola, poiché l'arrivo della madre capitava proprio nel bel mezzo del processo di conta e di pesatura dei chicchi di segale, suddivisi per campionature secondo il trattamento applicato. A causa di quell'interruzione avrebbe dovuto ricominciare a contare dal principio l'ultimo vassoio. Vicino alla figura grave di sua madre, Ingeborg, che indossava un abito bianco e le scarpe con la fibra della sua gioventù, con il sole che le faceva risplendere la pelle fresca e lentigginosa, il collo scoperto e la bocca composta in un sorriso di benvenuto, aveva l'aria di una bambina. Certamente non aveva l'aspetto di una moglie, e l'ultima cosa al mondo con cui potesse far pensare era la moglie di un pastore della chiesa luterana tedesca. Di nuovo, Frau Dremmel, come già quel giorno a Moek, scorse lentamente con lo sguardo la figura della nuora mentre riceveva il bacio distratto del figlio. Ma non disse nulla se non un Guten Tag all'indirizzo di quest'ultimo, limitandosi a lasciare passivamente che Ingeborg stringesse entrambe le sue mani inguainate nel cotone nero, come si conveniva alla sua condizione di vedova. «Di qualcosa, Robert», mormorò Ingeborg. «Riferiscile quanto sia felice. Dille tutte le cose che direi io se sapessi come dirle». Herr Dremmel fissò per un attimo sua moglie mettendo ordine ai suoi pensieri. «Perché? Dovrebbe essere necessario dire qualcosa», chiese. «È una donna semplice, non più giovane». «Mia moglie», disse rivolgendosi a sua madre, «desidera darvi il benvenuto». «Ach!» disse Frau Dremmel. Ingeborg la introdusse verso il corridoio che conduceva alla porta sul retro al giardino. Frau Dremmel, comunque, arrivata a metà corridoio, imboccò la via per il salotto. «Oh no, non lì!» la pregò Ingeborg. «Prenderemo il tè in giardino!» «Robert, per favore, dille!» Guardandosi attorno in cerca d'aiuto, però, scoprì che Robert se n'era andato e udì il rumore della chiave che veniva girata nella toppa. Frau Dremmel proseguì nel suo percorso verso il salotto. Prima che fosse possibile fermarla, si era già insediata saldamente sul divano. «Ma il tè», disse Ingeborg seguendole gesticolando, «il tè, sapete, là fuori, in giardino». Indicò la porta, poi indicò la finestra. Frau Dremmel si tolse con lentezza i guanti e le arrotolò in un cilindro, sciolse le stringhe che tenevano il cappello e guardò la porta, poi la finestra e di nuovo sua nuora, ma non accennò a muoversi. Allora Ingeborg, compiendo uno sforzo immenso per assumere un'espressione di gaia cordialità e determinata a far sì che in assenza di parole, dei gesti affettuosi potessero colmare le lacune, si piegò sopra la figura assisa sul divano offrendole il braccio. «Non venite?» disse, e aggiunse una frase che si era data appena di imparare a memoria. «Liebe Schwiegermutter?» E sorridendo, seppur con piglio guardingo e con il cuore in gola quando si trattò di toccarla, le tirò la manica con gentilezza. Frau Dremmel la fissò rimanendo immobile. «Liebe Schwiegermutter, il tè, in giardino, là è meglio», tentava di persuaderla Ingeborg, sempre sorridendo, ma ora alquanto accaldata. Non riusciva a ricordare una singola parola in tedesco, eccetto che «Liebe Schwiegermutter». Frau Dremmel, spinta e incoraggiata, si lasciò finalmente condurre fuori dalla casa in giardino e di lì lungo i cespugli di uva spina fino al punto in cui si trovava la tavola apparecchiata per il tè, fiancheggiata da una poltrona approntata all'uopo e resa più comoda da un morbido cuscino. La donna la raggiunse con aperta riluttanza, non staccandole mai nemmeno per un attimo gli occhi di dosso, specialmente dai piedi. Avvertendo su di essi il suo sguardo, Ingeborg cercò di nasconderli il più possibile alla vista, ma d'altro canto è impossibile celare i piedi sui quali si cammina. Inoltre, quando si sedette per versare il caffè, scoprì che la sua gonna non riusciva a nascondere nulla di ciò che si trovava al di sotto delle caviglie. Divenne sempre più nervosa, rovesciò il latte e lasciò cadere un cucchiaio. Paragonata alla figura rigida che sedeva in poltrona, si sentiva esagitata e incapace di esercitare qualsiasi forma di autocontrollo, oltre ad essere dolorosamente consapevole che la guancia offerta alla vista della suocera era di brace. Il fatto poi di sapere che la donna stesse osservando quel rossore era ragione sufficiente a imbarazzarla ancora di più. Se solo avesse distolto lo sguardo, avesse pronunciato qualche parola, si disse Ingeborg avvilita. Da sopra il bordo della tazza, gli occhi di Frau Dremmel non si stancavano mai di percorrere dai piedi alla sommità il corpo di quella strana creatura che suo figlio aveva deciso di sposare. Sembravano tracciarne il contorno e misurarne lo spessore senza posa fino a quasi perforarlo. Il resto dell'anziana donna invece rimaneva totalmente immobile. Ingeborg aveva già ingurgitato 3 tazze di quella bevanda scura bollente prima che Frau Dremmel fosse arrivata a sorbirne metà. Finalmente un vocabolo tedesco le balzò alla mente e ci si gettò sopra con ardore. Schon! Wunderschön! Esclamò compiendo un ampio gesto con le mani a racchiudere l'insieme dello scenario. Per un attimo Frau Dremmel levò gli occhi dal corpo accaldato e agitato della nuora per seguire quel gesto, ma non vedendo nulla tornò a fissare la sua attenzione sul medesimo oggetto. Non disse una parola. Il suo viso rimase inesorabile e impassibile e Ingeborg provò sgomento nel rendersi conto che i campi di segale non avrebbero offerto alcuna utilità a quell'argomento di conversazione. Non poteva continuare a dire all'infinito Sean, pertanto il rinfresco proseguì in silenzio. Il metodo utilizzato da Frau Dremmel per fare onore alle torte disposte sul tavolo consisteva nel cominciare una fetta di ciascuna per poi lasciarle immediatamente. Questo afflisse parecchio Ingeborg, convinta di aver preparato dei dolci deliziosi. L'area della tavola occupata da Frau Dremmel, che vi aveva avvicinato la sedia, era costellata da pezzi di dolci iniziati e subito abbandonati. In compenso mangiò numerosi panini, che ebbero il potere di estrarle l'unica parola che pronunciò durante tutto il pasto. «Fleisch!» diceva Frau Dremmel, spostando per un istante lo sguardo da Ingeborg per dirigerlo sui tramezzini che le venivano offerti, mentre con un indice scuro e indagatore sollevava quella porzione di pane che può essere descritta come il coperchio. «Già, già!» rispondeva Ingeborg con entusiasmo, deliziata da quell'afflato di vita. Risultò essere comunque l'unico. Subito dopo, un silenzio greve e impenetrabile piombò su Frau Dremmel. Non rivolse nemmeno la parola a Robert quando mezz'ora più tardi emerse dal laboratorio in cerca del caffè che non aveva trovato sullo stuoino fuori dalla porta. La sua educazione durante quella prima visita a casa del figlio dopo il matrimonio non le consentiva di pronunciare quelle incontrovertibili verità che stava spontaneamente emergendo dalle labbra della madre e comunque non aveva niente da dirgli. Herr Dremmel, del resto, non si aspettava nulla. Assorto profondamente nei suoi pensieri, non lasciava spazi nella sua mente se non alle questioni di primaria necessità. Se era affamato, mangiava, se era assetato, beveva. La figura silenziosa presso il tavolo, che infliggeva a ogni nervo di Ingeborg un'acuta sensazione di consapevolezza, non esercitava su di lui la benché minima impressione. Robert, di a tua madre quanto desidererei parlare se solo sapessi farlo, disse Ingeborg, tormentandosi le mani in grembo e aggrovigliando e disaggrovigliando il fazzoletto in innumerevoli nodi. Aveva il labbro superiore imperlato di goccioline di sudore e anche i riccioli sulla fronte apparivano madidi. Egli guardò sua madre, impettita e ben salda sulla sedia, che immediatamente ricambiò lo sguardo fissandolo con insistenza. Piccola, ti ho detto che è una donna semplice, non avvezza né tantomeno abile nell'esercizio delle arti sociali. Sii semplice a tua volta e vedrai che tutto andrà bene. Ma io mi sto comportando in modo semplice, protestò Ingeborg. È come se fossi muta, mi è impossibile esprimermi. Che cosa vi può essere più semplice di tutto ciò? Allora va tutto bene. Dammi il mio caffè. Mangiò e beve in silenzio. Poi si alzò e si allontanò di nuovo. Frau Dremmel lo guardò e gli disse qualcosa. Si tratta della carrozza? Chiese Ingeborg. No, vuole andare dentro, tradusse Herr Dremmel. Dentro? Dice che le zanzare la infastidiscono. Si diressero verso casa. A Ingeborg non rimase che seguirli. Nel raggiungere la porta sul retro, l'orologio della chiesa batté le 5. Ingeborg, lanciando un'occhiata alla faccia impassibile della suocera, si rese conto che quei rintocchi non avevano per lei alcun significato. La seguì in salotto e la guardò imponente mentre si accomodava sul divano.